Quanto tempo ho detto? Sempre una cifra magica. 10 giorni. Quanto posso incontrare George Clooney? 10 giorni. Quanto posso andare a letto con la regina Elisabetta? 10 giorni. Allora, state dietro, come ho detto nel gruppo precedente, state dietro agli editori che sono gente malvagia, come ho detto prima. Sono gente malvagia, cinici, tra le persone peggiori, i librai, anche gli editori, ma i librai sono proprio la feccia dell'umanità. Quindi state dietro, insultate, insomma, tallonatevi, questo. Abbiamo parlato in queste prime lezioni del gusto della scrittura e delle immagini di Flaubert, e se vi ricorderete, a un certo punto abbiamo fatto una notazione assai significativa, che quel che a lui piaceva non era tanto raccontare quanto scrivere, è tutto tale che diceva che un suo ideale sarebbe stato di poter scrivere un libro su niente, cioè su una trama praticamente inesistente, ed è quello che fa in questo capolavoro mirabile che è l'educazione sentimentale. Per quanto riguarda questo gusto delle immagini, ricorderete che aveva scritto nel segno di un gusto folle della bella parola e della bella frase, aveva scritto questa La Tentation de Saint-Antoine, questa grande prova che venne però stroncata dagli amici a cui l'aveva letto. Erano Louis Guyet e Maxime Ducamp, i quali gli consigliarono di buttare tutto nel fuoco, di non pensarci più, di occuparsi d'ora in poi di cose della vita pratica, i fatti che avvenivano realmente. Lui dette retta in due romanzi che non a caso sono le sue cose più grandi, Madame Bovary e l'educazione sentimentale, nonché in un racconto più tardo che è Encore Simple, che è l'altra cosa bellissima. Diciamo che Flaubert, laddove invece cede al mito e cede al fantastico, dove il gusto delle immagini può più liberamente squadernarsi, ha i risultati minori. Cioè Salambò, il libro dedicato all'antica Cartagine, a una ribellione di schiavi nell'antica Cartagine, Salambò, e poi anche gli altri racconti, La Légende de Saint-Julien, L'Hospitalier, Herodias. Ma dove invece si adatta a parlare di cose della vita d'ogni giorno, fa appunto queste cose straordinarie. Scrive un libro, che era Bovary, contro la borghesia. E abbiamo visto che complesso rapporto avesse con la borghesia. Di famiglia lui stesso borghese, direi alto borghese, certamente ricchi, il padre primario dell'ospedale di Rouen, e però odia la borghesia come la odiano tutti gli artisti francesi, gli aspiranti artisti francesi. Borghesia, come abbiamo detto, è quella fascia della società che mira a produrre e quindi non ha assolutamente a cuore i valori dello spirito. Tutto questo è naturalmente per lui intollerabile, come per altri, oggi diremmo intellettuali, ma come vi dicevo questo termine è posteriore, come per altri artisti francesi, in qualche modo quindi la sua posizione è naturalmente contro il regime nel quale si trova. Normalmente voi trovate nei manuali, quelli che avete studiato a scuola, chi li ha studiati a scuola, oppure delle informazioni che avete avuto, Flaubert ascritto a una corrente, a un movimento poetico. Tutti sapete qual è questo movimento letterario, poetico, letterario. Com'è il movimento al quale ha scritto, come si chiama il movimento al quale ha scritto Flaubert? Il realismo. Il realismo. Il realismo consiste in una cosa molto semplice. Consiste nel rappresentare la vita che ci sta intorno, privilegiando per la verità quelle classi sociali che erano state emarginate. Normalmente la letteratura era fatta, riguardava fasce sociali alte, eh? Invece privilegiando classi sociali borghesi, piccolo borghesi, fino a giungere al proletariato, quindi raccontare le cose come sono, privilegiando queste fasce sociali, due, tre, e qui è il punto sostanziale, impedendo che la persona dell'autore invadesse la descrizione. L'autore non si deve sentire. Qual è la ragione? La ragione è semplicissima. Meno l'autore si sente, più il lettore ha la sensazione che le cose siano autonome, le cose siano vere. Più si sente, per così dire, la presenza, i fili del burattinaio, meno questa sensazione si ha. Tuttavia, Flaubert, quando cercavano di dargli del realista, si incavolava molto. In genere, diciamo così, qualunque artista, quando cercano di etichettarlo, proprio perché è orgoglioso della sua aristocratica solitudine, si rifiuta, quindi l'idea che fosse ritenuto un realista, il padre, per esempio, del fondatore del realismo, che si chiama un tale Charles Fleury o Duranty, questo non lo poteva tollerare. In realtà non aveva torto, anche perché non è vero che la sua presenza non ci sia mai, la presenza di lui nel testo. È più mosso e articolato Flaubert rispetto ai canoni realistici. A volte si sente la sua presenza, ma soprattutto, il realismo suo consiste nell'avere scoperto e valorizzato gli aspetti bassi dell'essere umano, e in questo senso è realista. Questa categoria del, con la lettera maiuscola, del basso, è importantissima. È importantissima in lui e in quel libro che già vi ho fatto notare l'altro giorno, che si chiama Il pappagallo di Flaubert, vi ricordate, ve l'ho già letto, ci sono delle testimonianze, attestazioni che sono interessanti del suo gusto del basso. Sono pensieri, aforismi che vediamo, eccone uno qui per esempio: la gente è del 1847, la gente è come il cibo, ci sono innumerevoli borghesi che a me fanno l'effetto del manzo bollito, un cibo insapore, senza sugo, stopposo, che riempie subito lo stomaco ed è preferito dagli zotici. Altri invece sono come la carne bianca, il pesce d'acqua dolce, le agili anguille che popolano il letto fangoso dei fiumi, le ostriche con vari gradi di salinità, la testina di vitello e il porridge zuccherato. E io? Che cibo sono? Io sono come un piatto di viscidi, gocciolanti, maleodoranti maccheroni al formaggio. Occorre mangiarli ma non prima che il nostro stomaco abbia avuto ripetuti conati di vomito. È una bellissima descrizione, di se stesso come cibo disgustoso, come cibo disgustoso che bisogna imparare ad accettare. A me solo l'idea di maccheroni al formaggio mi suscita, per mia idiosincrasia, una sorta di orrore. Forse a qualcuno di voi piacciono, a lei piacciono i maccheroni al formaggio. Le scritte così nobili, una osservazione fine. Chi è che piacciono i maccheroni al formaggio? A lei piacciono? Chi è un fan dei maccheroni al formaggio? No, volevo farvi capire la scrittura che cosa significa. Alzi la mano chi è un fan dei maccheroni al formaggio. Lei? No, che era? Lei deve ascoltare quello che io le dico. Io le ho detto, lei è una fan dei maccheroni al formaggio? Vabbè. Poniamo, tutti avete quest'aria da caca sotto in tutte le circostanze. Io ne sapevo, dovete essere più chiappi in su, eh? Posto che a lei piacciono i maccheroni al formaggio, se adesso, lei come si chiama? Matteo. Come Matteo adesso con acutezza ha notato, se io le descrivo i maccheroni al formaggio in questo modo, ascolti bene da lei che mi sto rivolgendo, come un piatto di viscidi, gocciolanti, maleodoranti, cioè puzzano, maccheroni al formaggio che tu mangi e riesci a gustare solo dopo aver avuto degli sforzi di vomito. È chiaro che a questo punto sarà molto difficile accettarli. Molto difficile. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui è nel basso. Questa è una cosa bellissima. Nel basso. C'è una scena d'amore fondamentale in Madame Bovary in cui il seduttore tenta, chi conosce di voi Madame Bovary? Benissimo. In cui il seduttore Rodolfo tenta di sedurre Emma, e questa avviene, questa scena, questo tentativo di seduzione, intervallato dai grugniti dei maiali, dal raglio degli asini, dal chiocciare delle galline, dal muggire dei buoi, nella puzza dell'etame. Perché stanno, in quella festa campestre, stanno vendendo degli animali. Pur nel suo schematismo, e questa l'arte naturalmente della poveria è adorabilmente schematica, effettivamente quello che passa, come si suol dire, molto bene è questo messaggio. Ci siamo non in alto, ma ci si ama in basso. L'amore è un fatto che riguarda la parte bassa del corpo, non riguarda i cuori, riguarda il basso. Flaubert era un ateo, difficile trovare qualcuno che fosse più ateo di Flaubert. Flaubert era anche, senza alcuna esitazione, un porcaccione. Era un porcaccione silenzioso. Un porcaccione silenzioso. La governante che si occupava della nipotina, che era rimasta in casa dopo la morte della sorella, lui gli andava dietro, la palpava di dietro e se la faceva. Non parlava dei suoi rapporti con le donne, però si sapeva che era un assiduo frequentatore di puttane. Di questo non ne parlava. Quest'uomo gigantesco era invaghito di un'idea del potere essere sincero nelle cose del sentimento. Voleva a ogni costo, anche a costo di essere orrendamente sgradevole, dir la verità sui sentimenti e sulle donne. Colgo l'occasione per dirvi che la Bovary è un capolavoro, una pax legomena, una cosa che avviene una sola volta, perché è riuscito a descrivere la psicologia femminile, non essendo sposato, ma date bene, non essendo sposato, per il vecchio detto che si impara di più stando con un uomo in un matrimonio per un giorno che stando insieme per 10 anni di fidanzamento. Lui non era sposato, ha capito in modo mirabile la psicologia femminile solo, come si dice spesso tra intellettuali addetti ai lavori, solo potendo stare a pari di Tolstoi in Anna Karenina, soprattutto in Anna Karenina. Ma la Bovary era un capolavoro di intuizione dell'animo femminile fatto quando non aveva 35 anni. Gusto del basso. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Sentite quest'altra notazione, 1852. Sentite che meraviglia. La vita è una cosa atroce, come un piatto di minestra sul quale galleggiano dei capelli umani. Ma dobbiamo rassegnarci a mandarla giù. Vediamo ancora se c'è qualcosa. Questo a proposito dei sentimenti. Il mio cuore è ancora intatto, ma i miei sentimenti sono affinati per un verso e smussati per un altro, come un vecchio coltello troppe volte affilato, meraviglioso questo, la cui lama è piena di tacche e rischia di spezzarsi facilmente. Io ho ancora una capacità di amare, ma troppe volte mi ci sono provato. Ed è come un coltello che viene affilato, ma a forza di affilarlo il coltello, la lama diventa sempre più sottile, sempre più fragile. Per cui con i capelli bianchi viene il momento in cui la lama si spezza. Una disillusione, quando tu ce l'hai a 20 anni è una cosa, quando ce l'hai a 50 è un'altra, è un'altra. Non me la ricordava, anzi, questa citazione meravigliosa della lama, che il suo sentimento c'è ancora, ma a forza di provarci e di avere avuto dei falli, scrivetelo a capo del letto questo, perché già alla vostra età ci avete provato e vi ha dato buca, ne sono convinto. Non c'è nessuno qui presente che non abbia, in senso naturalmente alto, non abbia, insomma, la propensione del corrotto. Nessuno, ne sono convinto. È una delle propensioni più alte, più nobili dell'essere umano. Ve lo dirò fra poco. Il gran cornuto, ve lo dirò fra poco, è una figura che considereremo nella sua altezza morale. Chi non lo è uomo che è fuori dalla grandezza della forma. Lei è una gran cornuta? Ecco. Sono le persone che sono aride, prive di sentimenti, prive di cuore. Capite? Ecco, adesso non è proprio con questi termini, ve lo dirò in altro modo, un po' meno pregnante, diciamo così, ma insomma, il gran cornuto è una figura fondamentale. Le grand cocu, ve lo dico anche in francese, che possa essere utile e stimolare lo spirito. Certo, in queste frasi noi abbiamo il diritto di queste frasi anche, oltre che ammirare la carnalità e il gusto del basso, si ama con la parte in basso del corpo, capite? Abbiamo anche il diritto di avere un sospetto. Sono frasi troppo belle. Troppo belle. Come se lui avesse scritto queste frasi anche o più per amore dello stile che per amore del contenuto, per così dire. Le frasi sono certamente sempre importanti per lui. Ricordate quella cosa che abbiamo detto, che sua madre gli diceva: la passione delle frasi ti ha disseccato il cuore. Però è altresì vero, parlando dei maccheroni, parlando dell'amore di pancia, è altresì vero che la materia lo affascina molto. E quindi dobbiamo dire che lui è realista, non nel senso classico, l'autore che non interviene, la descrizione delle cose intorno, specie di certe fasi, di certe fasce sociali, no? Non esattamente nel senso classico, ma lo è, in quanto è attratto profondamente dalla realtà delle cose. E aggiungiamo due, in quanto le cose, gli oggetti, sono estremamente importanti per lui. Gli oggetti. È un bel tema questo, gli oggetti in letteratura. Mi viene in mente adesso che in Madame Bovary a un certo momento c'è una scenata, no? E allora le porte clacquer, boom, le porte che sbattono, sapete come fosse. Lei sa che se continua così a scrivere così vicino, diventerà cieca. Già lei ci vede poco, ma è molto probabile che continuando stia dritta, per Dio. Se continuate a scrivere così, praticamente attaccata alla cosa, diventa cieca. Si tenga bene. Ecco, scrivete veramente. E anche un tradotto più decoroso, perché immaginiamo che tutti foste voi spiancicati, per così dire, sul banco, no? Beh, sarebbe uno spettacolo disdicevole, insomma. Alcibiade non voleva suonare il flauto perché si gonfiavano le guance, quindi era rotto. E voi tutti, giovani ragazzi, vi scompaginaste nei vostri giovani corpi sui tavoli? È vero o no questo? Lei è sensibile al senso estetico? Invade la sua esistenza? Informa i suoi pensieri? Lo faccia di più d'ora poi. Dunque, cosa stavo dicendo? Lei mi ha fatto perdere tempo. Perdere il filo soprattutto, non tanto il tempo ma quanto il filo. La vita materiale. La scenata. Mentre c'è questa scenata, boom, le avete sentite, forse voi non avete mai avuto delle scenate in casa, quindi non sapete nemmeno di che cosa sto parlando. Sai quelle scenate quando uno apre la porta, pam, per richiuderla, per far vedere che l'ha chiusa la stanza. E l'altra due volte, a me è stato una volta, con l'arrivo di mia moglie, che aveva aperto la porta, poi pam, giù, per Dio. No. Una volta mia figlia non aveva creduto che non avessi capito, allora l'aperta, la chiusa, e non è possibile. Poi un bicchiere che pam, si rompe in cucina. Ma chi è che ha rotto questo bicchiere? Niente, mi è cascato di mano il bicchiere, eccetera. Ecco. Sapete cosa succede in questa pagina flaubertiana? C'è un barometro che cascia la parete, si rompe. E ho letto delle critiche abbastanza insensate in cui parlavano di persone poi notevoli, parlavano, ma perché il barometro? Che ci sta a fare il barometro? Ma il barometro è un oggetto tipico di una casa borghese nell'Ottocento, no? Il barometro ti controlla il tempo, il fuoco, l'umidità, la temperatura, no? È un senso di sicurezza. Anche voi avrete probabilmente il vostro barometro a casa, sicuramente, forse in tutte le stanze avrete un barometro. Avrete un barometro nel bagno, vicino alla tazza del gabinetto, in cucina. Ma il barometro è un segno di solidità, di sicurezza. E lì casca, che significa che caschi? Significa che l'equilibrio della casa evidentemente viene infranto. Gli oggetti piacciono a voi. Piacciono i temperini. Dopo che Rodolphe ha fatto l'amore con Emma, è inutile dire che Flaubert calca enormemente la mano su certi topoi per cercare di attirare l'attenzione del lettore, è una sua grandezza peraltro, perché sapete cosa si dice? che dopo che la coppia ha fatto l'amore, la donna rimane, visto che l'orgasmo è cosmico della donna, secondo il mito naturalmente, perché sono donne che hanno un orgasmo uno o mezzo di tutta la vita, e quindi rimane in uno stato di sofferta e beata deliquescenza, laddove l'uomo si volta dall'altra parte e dorme. Questo è un dorme. Dorme immediatamente russa, mentre lei rimane a palpare nella lei coscienza tutti i benefici che ha ricevuto corporalmente, non solo, lui invece dorme, magari emettendo rumori biechi, cupi, insomma. Così viene descritta normalmente la vita sessuale, la vita sessuale. E la vita coniugale? Del temperino. Dopo che ha fatto l'amore Rodolfo con Emma, mentre lei appunto se parla, è in deliquio sull'erba, lui con il temperino aggiusta la briglia del cavallo. Ora era quello il momento di aggiustare la briglia del cavallo, e quel temperino mostra con la sua squisita ironia proprio il modo in cui intendeva Flaubert la vita. La vita è fatta di barometri, di temperini, di cose materiali, di fango sulle scarpe. E c'è un punto notato dal sommo critico Eric Auerbach, che dovreste conoscere quantomeno, l'autore di Mimesis, esattamente, in cui c'è una pagina flaubertiana analizzata, che è meravigliosa, è quella del pianto. A casa, nelle vecchie famiglie, ma anche nelle famiglie, insomma, adesso maschi, femmine, fanno cucina, si aiutano, eccetera. Una volta il maschio non doveva fare assolutamente nulla in cucina, insomma. Io mi ricordo che da bambino offrivo a mia zia che faceva cucina sorta di collaborazione per fare i tortellini, anche perché volevo poi fregare qualcosa nella facitura dei tortellini. No, tu sei un uomo, non devi fare cose di questo genere, assolutamente, lavare i piatti, far cucina, eccetera. Uno dei riti nelle famiglie borghesi era che la moglie desse da mangiare al marito, poi mangiava lei. Vi sto parlando non di 150 anni fa, perché nonostante l'apparenza sono sotto i 150. Vi sto parlando di tempi molto recenti. Un signore, io vengo dal Piemonte, dalla mia origine, aveva il fiasco di vino vicino a sé, non sul tavolo, e quello lo dava poi ai singoli ospiti, ai singoli commensali, ma il vino doveva essere potere suo. Cioè, come la civiltà era patriarcale fino a 10, 20, 30, 40 anni fa in Italia, è inimmaginabile. Dunque le donne danno da mangiare agli uomini. E lei prepara il piatto per il marito. E il marito, secondo un topos meraviglioso, il marito è uno stupido, è un mangione, pensa soltanto alle necessità del corpo. Quindi quando ha il cosciotto di agnello davanti lo mangia. E lei gli dà questo piatto, gli porge questo piatto. E lui mangia, più o meno come un cane. Se gli date una ciotola con il gatto, chi è che aveva il gatto? C'è uno di voi che aveva un gatto? Il gatto Bacco, vedete che me lo ricordo, eh? Ma se tu a un gatto affamato gli prendi la ciotola e gliela metti davanti, lui il gatto è un gatto, cioè non è che ti aspetta che tu sia andato via, cerca di mangiarti nella mano stessa, capisci? Così i mariti, secondo Flaubert odia gli uomini. Prendete nota di questo, Flaubert odia gli uomini, ama le donne e odia gli uomini. E lei, dice Flaubert, è un voyer dans son assiette. Nel suo piatto, lei vedeva nel suo piatto tutta l'amertume de sa vie, tutta l'amarezza della sua vita era concentrata nel piatto che aveva davanti. Pensate che mentre il marito mangia, lei fa con un coltello delle righe di rabbia sulla tela cerata come nelle case borghesi. La tela cerata serve naturalmente a proteggere il palo, forse ce l'avrete anche voi a casa sotto la tovaglia, eccetera, e mastica delle noccioline, una cosa di questo genere, cioè non mangia perché mangiare lo sente volgare e quindi il mangiare è delegato a lui, all'uomo, ma vede nel piatto vede la sua amarezza. E Auerbach nota, vedete come Flaubert dipinge i sentimenti attraverso gli oggetti. Anziché dire Emma era stufa del marito, dice Emma vedeva nel piatto di coccio, di ceramica, davanti, tutta l'amarezza della sua vita. Questa casa, castello di Rouen, vive silenzioso come un monaco. La madre è a sua disposizione. A una certa ora del mattino, alle 10, lui batte con un battacchio o con uno dei suoi pugni alla parete. La madre viene, gli porta il caffè, gli porta i giornali, lui poi fa qualche lezione alla bimbetta, a Caroline. La casa è composta dalla mamma, lui, Caroline, la bimbetta nata da Caroline, la sorella, che è morta di parto. Questa Caroline sarà una carogna, amata moltissimo da Flaubert. Sarà una donna dura, rigida, che per bienséance, cioè per rispetto dei buoni costumi, distrugge l'epistolario di Louis Collet, cioè dell'amante di Flaubert, a lui. Per fortuna non sono state distrutte le lettere di lui a Louis Collet, ma tutto quello che lei e Louis Collet scriveva non abbiamo più nessuna traccia, perché Caroline aveva, diventata adulta evidentemente, aveva voluto distruggere tutto. Che vita avrebbe vissuto Flaubert se avesse deciso di muoversi da questa clausura dove stava? Sempre lì, sulla Senna, su questo castello, in questo castello, scrivendo per 7-8 ore, cominciava a scrivere la sera e andava avanti nel cuore della notte. E come sapete, come vi ho già accennato, si sgolava letteralmente dalla finestra, urlava le sue frasi bellissime, perché sosteneva, e non ha torto, che per sapere se la frase reggeva bisognava gridarla. È assolutamente vero questo. Se tu ti limiti quando scrivi a sussurrare fra te le cose che hai scritto, non hai minimamente idea non solo delle ripetizioni che puoi avere involontariamente fatto, che normalmente si fanno, non solo quello, ma non hai idea del ritmo. E il ritmo è tutto. Lui dice, il ritmo è tutto. Un amico, Maxime Ducamp, che abbiamo già veduto, gli propone di andare a Parigi, di andare a vivere a Parigi. E sentite però come lui risponde a quest'idea del cambiare vita. sentite che belle parole scrive, diventare noto non è la mia principale preoccupazione, è una cosa che può rendere completamente soddisfatto solo un presuntuoso estremamente mediocre. E inoltre la celebrità può essere considerata una prova positiva del valore del nostro lavoro? Persino la fama più larga in vita può non durare dopo la morte. E raramente uno che non sia uno sciocco può essere sicuro della propria gloria postuma. Perciò nemmeno davanti a noi stessi la celebrità è una prova dell'avere compiuto grandi cose, né l'oscurità è la prova che non le si siano compiute. Sentite questa bellissima. Io miro a qualcosa di meglio, di assai meglio. Io miro a far piacere a me stesso. Il successo mi sembra un risultato, non un fine in se stesso. Ho concepito un certo modo di scrivere e una certa bellezza di lingua che desidero raggiungere. Quando riterrò di avere raccolto il frutto dei miei sforzi, non rifiuterò di venderlo e non proibirò gli applausi se il mio lavoro sarà buono. Se d'altra parte, quando sarà il momento, nessuno lo vorrà, non ci sarà nulla da fare. Ti assicuro che sono d'accordo con te nel desiderare di poter ottenere di più con minor fatica, ma non vedo nessun rimedio a questo stato di cose. Se un'opera d'arte è buona, se è autentica, un bel momento verrà riconosciuto. E se uno deve aspettare per il riconoscimento 6 mesi o 6 anni o sino alla morte, che differenza c'è? Tu mi dici che soltanto a Parigi si respira l'alito della vera vita. A parer mio, il vostro alito di vita parigino ha spesso l'odore dei denti marci. In quel Parnaso si è visitati più spesso da un'esalazione mefitica che dalla divina follia, e tu ammetterai che gli allori raccolti là non di rado sono inzaccherati di letame. Quando gli dice che sarebbe opportuno comunque che lui venisse, lui insiste ancora e Flaubert risponde: mi dispiace che tu sia così sensibile, non desideravo affatto offenderti con la mia lettera. Al contrario, ho cercato il più possibile di mantenermi entro i limiti dell'argomento. Ma perché ricominci da capo? Perché predichi una dieta a un uomo che è tanto presuntuoso da considerarsi in ottima salute? Le tue preoccupazioni per me mi sembrano comiche. Ecco tutto. Ti rimprovero di vivere a Parigi, forse, di aver pubblicato, eccetera. Ognuno di noi deve vivere come gli conviene. Tutte le piante non hanno bisogno delle stesse cure. E inoltre, se il destino non è dalla nostra parte, lotterai invano tu a Parigi e lotterò invano io qui a Croisset. Se non abbiamo la vocazione, nulla sortirà dai nostri sforzi. E se al contrario l'abbiamo, perché tormentarci per il resto? Ecco, queste testimonianze. Queste testimonianze sono molto interessanti di un rifiuto di vivere non solo la vita modesta borghese dei suoi tempi, ma anche di vivere come i letterati dei suoi tempi. Questo rifiuto è particolarmente sensibile non solo nei rapporti con gli amici, ma anche nel rapporto con la donna che abbiamo già più volte nominato e che fu la sua amante, Louise Collet. Di lei parleremo la prossima volta, ma intanto dobbiamo dire quanto segue. Si trattava di una donna mediocre, arrivista, arrampicatrice, una donna stupida, una donna con cui, una bionda, con cui era possibilissimo avere un buon amore fisico. Forse Flaubert poteva limitarsi a questo. In realtà quel che voleva era un'altra cosa. Era poter parlare, poter dire quello che lui era e dire quali erano i suoi pensieri. Quando noi abbiamo dei pensieri importanti in testa, noi possiamo scegliere un amico o un'amica che condivida questi pensieri. Ma spesso, sia per presunzione, sia per sottile convinzione che non riusciamo a comunicare il senso dei nostri pensieri, abbiamo bisogno di qualcuno che semplicemente ci ascolti con attenzione, venerazione, magari, anche senza capire, ma che sia il ricettacolo dei nostri pensieri. Questo è il segreto di molte amicizie squilibrate, in cui c'è sempre uno che dice e l'altro che ascolta, uno che dà e l'altro che prende. Ma anche nei rapporti sentimentali è un errore pensare che avere la donna, la moglie, assolutamente all'altezza del proprio ingegno possa essere utile. Invece c'è bisogno di una distanza netta, conclamata, perché per esprimere i propri pensieri più profondi bisogna rimanere soli con se stessi. Ripeto, per esprimere, per riuscire a esprimere i propri pensieri più profondi, occorre mantenersi in una solitudine.